Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata 182 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di fisica, di astronomia meglio ancora, ma in particolar modo ci occuperemo di GRB, Gamma Ray Burst. Quando proviamo a creare nel nostro cervello un'immagine dell'universo, ce lo immaginiamo come un luogo calmo e tranquillo, un po' un luogo New Age. Tutt'altro, l'universo non è un luogo calmo e tranquillo, è pieno di eventi altamente energetici e in particolar modo l'evento più energetico di tutti è il GRB, il Gamma Ray Burst. Ce ne occuperemo questa settimana di Gamma Ray in compagnia della dottoressa Elisabetta Bissaldi, postdoc presso l'Università di Innsbruck. Intanto Elisabetta ti saluto e con te parleremo di un paper, di un preprint pubblicato su Archive qualche giorno fa intitolato First Year Results of Broadband Spectroscopy of Brightest Fermi GMB Gamma Ray Burst. In particolar modo su questo paper si cerca di individuare un metodo per scremare i dati provenienti dal satellite Fermi per individuare i gamma altamente energetici. Allora a questo punto Elisabetta ti lascio la parola per le 100 parole iniziali con le quali vorrei che introducessi un pochino il contenuto di questo paper. A te la parola. Ok, allora nel paper ho analizzato un campione che è stato selezionato tra i primi GRB osservati durante un anno di operazione del satellite Fermi, che è un satellite NASA in collaborazione con altri paesi anche europei, che è in orbita da giugno del 2008. E la particolarità dei GRB che ho analizzato è che si possono definire GRB diciamo più brillanti, cioè osservate a energie più alte, grazie soprattutto a dei rivelatori particolari che sono appunto stati costruiti apposta per questa missione Fermi. I risultati principali del paper sono diciamo due. Da un lato la possibilità di implementare un sistema di allerta per poter appunto trovare e scoprire nel modo più veloce possibile questo tipo di gamma ray burst speciali e quindi poterli anche seguire con altri strumenti in orbita e da terra. E dall'altro diciamo lo studio poi di quelle che sono le caratteristiche temporali e spettrali e anche il confronto con i gamma ray burst registrati diciamo da missioni precedenti Fermi e quindi poter capire un po' di più di quello che sono le caratteristiche di questi fenomeni. Perfetto Elisabetta, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale. Quando torneremo in studio nella prima parte della trasmissione parleremo di che cosa sono effettivamente i gamma ray e nella seconda parte della trasmissione andremo a spulciare come nostro solito il paper pubblicato appunto qualche giorno fa su Archive. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. I had this dream that I was standing in Osaka. There was a geisha and a refugee. Deep down in her pocket there was a tarnished silver locket, and the picture frame had always been empty. She takes that refugee to town and keeps her eyes down on the ground as if she's waiting for the earth to open up and pull the geisha, that man, to the cauldrons of Japan, beneath the streets that only serve to keep the gravity at bay. She told I had this dream. There were two star-crossed teenage lovers trying to keep their secrets safe from everyone. As if the parents ever learned this, they would slash and they would burn this, and everything they know would be undone. So they hid beneath the bleachers, out of view from all the teachers, as the marching band played Hail to the Team. It was the last game of the season, and they were shaking, they were freezing. There was nothing but their bodies in between. She talks, sigh, sleep, walk, you know, I did not hear a thing. Adventures of Deep Dreamer. E con la musica di Josh Woodward, che questa settimana ci stiamo accompagnando all'interno della 182esima puntata di Cacciafotone, all'interno della quale stiamo parlando di Gamma Ray Burst. In particolar modo ne stiamo parlando con la dottoressa Elisabetta Bissaldi, postdoc presso l'Università di Innsbruck, primo autore di un preprint pubblicato qualche giorno fa su Archive. All'interno di questo preprint si prova a individuare un metodo per gamma altamente energetici, i cui dati vengono dal satellite Fermi. Per cominciare però la trasmissione bisogna partire dall'inizio, e quindi Elisabetta, la prima domanda che ti faccio è questa: che cosa sono, che cosa definisce l'astronomia per Gamma Ray Burst? Allora, i gamma ray burst sono, come dice il nome, sono dei lampi di raggi gamma che provengono dallo spazio e in un certo senso rappresentano gli eventi, diciamo, più energetici che si possono verificare nell'universo. E per un brevissimo istante il cielo viene illuminato, diciamo, da un flash di questa radiazione gamma che supera in intensità la somma di tutte le altre sorgenti gamma conosciute nel cielo. Sono degli eventi unici, nel senso che non si ripetono più di una volta nello stesso punto del cielo, e questo ci dà già un'informazione sul fatto che sono dei fenomeni, diciamo, catastrofici, cioè nella loro posizione sta succedendo qualcosa di unico che probabilmente, diciamo, marca la fine della vita, probabilmente di una o più stelle che hanno causato questo fenomeno. Si possono dividere in due classi: in quelle che si chiamano i gamma ray burst short, cioè quelli corti, e i gamma ray burst lunghi. Questa, diciamo, è una divisione puramente osservativa, cioè si vede che alcuni di questi eventi durano addirittura nell'ordine del millisecondo o del secondo, quindi vengono definite corti, mentre altri, anche appunto, sono stati visti durare molto molto più a lungo, fino anche a qualche minuto. Una delle particolarità dei gamma ray burst è che, nonostante, come dica il nome stesso, hanno la loro, cioè piccano la loro energia appunto nella banda gamma, si possono osservare anche in altre bande energetiche, come per esempio la banda X, la banda ottica, nell'infrarosso. Si possono vedere anche dopo la loro esplosione, si vede quello che viene chiamato afterglow, cioè, diciamo, la radiazione successiva all'evento gamma. In pratica funziona così: esplode un gamma ray burst, lo strumento che ha a bordo dei rivelatori in grado di misurare questa radiazione gamma avverte, diciamo, tutti gli altri satelliti e anche gli osservatori a terra che c'è stato questo evento, e altri satelliti che hanno a bordo strumentazione magari ottica o X, oppure appunto i telescopi di terra, vanno a seguire magari per ore, magari per giorni, l'evoluzione del burst. Elisabetta, prima di continuare ti fermo un attimo perché ti devo fare una domanda fondamentale. In che posto dello spettro elettromagnetico collochiamo la radiazione gamma rispetto alla radiazione visibile, che è quella che riusciamo a percepire attraverso i nostri occhi? La banda gamma è una, diciamo, è la gamma più estrema rispetto a quella ottica. Diciamo che, appunto, come quando si parla di raggi X che hanno una lunghezza d'onda estremamente piccola, Ecco, la banda gamma è ancora più piccola, ancora più energetica. Per fortuna, infatti, noi sulla Terra abbiamo l'atmosfera che ci scherma, che previene i raggi gamma di arrivare fino a Terra, altrimenti non ci sarebbe la vita. E no, appunto per questo motivo i raggi gamma si possono osservare solamente con satelliti che vengono messi appunto in orbita oltre l'atmosfera, altrimenti non si potrebbero vedere. Elisabetta, prima parlando dei gamma ray, hai diviso i gamma in due categorie distinte, i gamma ray lunghi e i gamma ray corti, però ci hai anche detto che il gamma ray altro non è che l'effetto di un qualcosa che succede nell'universo che poi genera il gamma che poi viene rilevato dal satellite. Domanda, c'è una distinzione fisica nella creazione di un gamma ray lungo o corto? Cioè sono eventi differenti che creano differenti tipi di gamma ray? Secondo gli studi che sono stati fatti negli ultimi, diciamo, 20-30 anni, dato che comunque il campo dei gamma ray burst è un campo piuttosto recente, dovrebbero essere appunto dei fenomeni proprio fisicamente diversi. Nel caso dei gamma ray burst lunghi si parla spesso di un collegamento con un'esplosione, diciamo, di supernova, cioè la morte improvvisa di un'enorme stella massiva che appunto collassa su se stessa, viene anche definito collapsar, e quindi in un tempo, diciamo, più lungo, qua stiamo parlando sempre di un evento catastrofico veramente su scale di tempo brevissime, comunque in un tempo più lungo dovrebbe emettere questa radiazione gamma. Nel caso invece di un gamma ray burst corto si parla di, queste sono appunto tutte teorie, non c'è nessuna, diciamo, sicurezza al 100%, però dovrebbero essere due stelle di massa molto minore, quindi per esempio due stelle di neutrone, due nane bianche, due stelle compatte che orbitano una attorno all'altra sempre più, diciamo, vorticosamente finché non coalescono, cioè finché non si scontrano e creano, diciamo, la stessa esplosione, un'esplosione simile rispetto a quella di una stella singola che collassa, però appunto su scale di tempo ancora più brevi. Secondo i modelli dovrebbero essere, cioè potrebbe anche essere per esempio un buco nero con una nana bianca, ma tendenzialmente quello che succede è che si va a creare un buco nero nel punto in cui c'è stata questa esplosione, cioè si pensa che il buco nero sia il risultato, sia alla fine quello che rimane come, diciamo, traccia dell'esplosione, alla fine dovrebbe rimanere un buco nero secondo la teoria. Senti Elisabetta, nel corso del tempo, ce l'hai appena detto, sono circa 20-30 anni che conosciamo questi eventi altamente energetici, gamma ray burst. La nostra conoscenza su questi eventi è assolutamente cambiata. Prima praticamente non si conosceva nulla sui gamma ray, oggi se ne conosce un pochino di più. Ecco, la domanda è personale. Com'è cambiata la tua conoscenza sui gamma ray, visto che hai attraversato questi 10 anni prima da studentessa e ora come ricercatrice? Bella domanda. Sicuramente negli ultimi anni si è lavorato molto a riguardo di quello che spiegavo prima essere l'afterglow, uno dei campi nei quali direi si è avuto maggiore sviluppo negli ultimi 15 anni. Si è andato molto di più a studiare quello che è, diciamo, l'ambiente subito esterno al gamma ray burst, e a capire quindi il mezzo interstellare che è, diciamo vicino al gamma ray burst, e spesso anche si è potuto studiare la proprietà delle galassie che ospitano il gamma ray burst, galassie che sono appunto spesso lontanissime, cioè coi gamma ray burst si è stati in grado di andare a studiare galassie che altrimenti non si sarebbero viste con gli strumenti ottici, diciamo, di tutti i giorni, che fanno delle survey per studiare appunto porzioni del cielo. Cioè coi gamma ray burst sicuramente ci siamo spinti molto più avanti, e in questi ultimi anni, mentre io, diciamo, facevo l'università, il dottorato, si sono visti gamma ray burst sempre più lontani, con caratteristiche sempre più particolari, appunto riguardo a questo, a questa emissione di afterglow. Questa è una delle cose che mi viene in mente. Elisabetta, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Penso che in questa prima parte siamo riusciti a dare una spiegazione piuttosto ampia di che cosa sono i gamma ray, e nella seconda parte della trasmissione andremo a capire il contenuto del vostro paper e soprattutto andremo a spulciare la vostra analisi su questi 52 gamma ray altamente energetici. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Try to do my best to keep you safe inside this nest and keep the gravity from pulling you to earth. I'd like to say this gets more clear when it's more cloudy every day, but summer's gonna come and burn the stormy clouds and all the doubt away. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. So close your eyes and say goodbye to spring. It's true, the spring is coming to an end. You're not that fragile anymore. I know what's there behind that door, and it's just waiting in the wings to pull you in. I know you think you're safe in here inside these insulated walls, but I can't hold this house together, not forever, yeah, soon it's gonna fall. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. Everything will change. Everything will change. This door slamming shut is gonna catch you if you're ready or you're not. Ed è sulla coda di Goodbye to Spring di Josh Woodward che torniamo ancora una volta in studio qui nella 182esima puntata di Caccia Fotone, in cui ci stiamo occupando di gamma ray burst in compagnia della dottoressa Elisabetta Bissaldi, postdoc presso l'Università di Innsbruck. Abbiamo in collegamento VIP via Skype la dottoressa Bissaldi, perché appunto la dottoressa Bissaldi è primo autore di un paper, di un preprint pubblicato pochi giorni fa su Archive, intitolato First Year Results of Broadband Spectroscopy of Brightest Fermi GMB Gamma Ray Burst. In questo paper si analizzano ben 52 gamma ray, in particolar modo 34 lunghi e 18 corti. A questo punto, Elisabetta, ridò di nuovo a te la parola. Qual è la particolarità di questo paper e soprattutto quanto tempo ci avete messo a scriverlo, perché è piuttosto corposo? Allora, è stato un lavoro piuttosto lungo, dato che solitamente quando si fanno questo genere di lavori che riguardano una selezione ampia o meno ampia di burst, solitamente si può attingere a quelli che sono i cataloghi che ci sono in letteratura di gamma ray burst. Nel caso di questo paper ovviamente è stato tutto un lavoro diverso, poiché abbiamo cominciato a prendere dati non appena il satellite ha cominciato a funzionare, e quindi non si ha a che fare con un catalogo, ma bisogna costruirselo da soli il catalogo. E quindi cosa è stata la cosa più difficile? È stato andare a trovare dei modi per selezionare i burst a seconda della loro importanza. In questo paper io ho selezionato i burst particolarmente energetici. E come ho fatto? Praticamente siamo andati a guardare i dati che il satellite produce, diciamo quelli che sono immediati, e siamo andati a vedere, appunto contando quanto erano brillanti, quindi contando il numero di fotoni che vengono registrati dallo strumento, nei primissimi secondi dopo che esplode il gamma ray burst, dopo che abbiamo appunto il segnale che viene chiamato trigger. In pratica si va a vedere quali sono i burst che hanno più conteggi in assoluto, e in questo modo io ho tirato fuori questi 52, un campione di 52 burst. Questo per noi è un tema estremamente interessante, estremamente scottante, poiché precedentemente a Fermi non c'era stato, cioè c'era stato un solo satellite che era andato a studiare i burst che emettono anche ad energie più alte, diciamo, del solito, ma ne aveva visti di questi burst particolarmente energetici non più di una dozzina in un periodo di 10 anni di funzionamento. Si chiamava Compton Gamma Ray Observatory, e in particolare lo strumento si chiamava BATS. La particolarità quindi del nostro strumento adesso è che in un periodo di tempo molto più corto abbiamo avuto già molti di questi eventi che registrano, registrano fotoni ad energie ancora più alte. La particolarità di questi burst ad energie molto alte è che possono essere registrati anche dal secondo strumento, che è sul satellite Fermi. Lo strumento di cui parlo io nel mio paper si chiama Gamma Ray Burst Monitor, ed è praticamente, sono una serie di rivelatori che sono stati costruiti proprio per studiare i gamma ray burst, diciamo nella loro fascia energetica classica, standard, quindi al di sopra del KeV, del kilo electron volt, fino più o meno a una quarantina di mega electron volt. Il secondo strumento a bordo di Fermi è il Large Area Telescope, che invece funziona in un modo completamente diverso e può registrare però fotoni alle altissime energie. Quindi qual è, diciamo, il busillis di questo metodo che descrivo nel paper? È trovare un modo per avvisare l'altro satellite, diciamo non l'altro satellite, l'altro strumento, che c'è quel burst è potenzialmente molto interessante ed è potenzialmente un candidato a poter avere fotoni di energia altissima. Praticamente, Elisabetta, in questo tuo intervento hai un po' riassunto il concetto del vostro paper. Il vostro paper paradossalmente è importante non tanto per risultati, ma tanto perché identifica un metodo per arrivare all'identificazione di gamma ray ad alta energia. Questa è la cosa importante di questo paper. Però tu personalmente come ci sei arrivato a studiare i gamma ray? In fondo in astronomia ci sono molti campi di studio, eppure i gamma ray sono uno spazio, un argomento molto, molto piccolo. Tu come hai cominciato a studiare questo argomento specifico? È stato durante il mio periodo all'Università di Trieste, facevo la laurea specialistica in astrofisica e fisica dello spazio, e ho seguito un corso di astrofisica nucleare, e durante questo corso c'è stato fatto un seminario appunto che parlava di gamma ray burst, e è stato un argomento che mi ha affascinato immediatamente appunto per la sua peculiarità. E quindi sono finita così, ho chiesto la tesi sui gamma ray burst, e da lì poi sono andata a fare il dottorato appunto all'Istituto Max Planck a Monaco, e sono entrata a far parte della collaborazione di Fermi del Gamma Ray Burst Monitor. Elisabetta, prima parlavi del satellite Fermi che poi vi è stato utile, diciamo così, per compilare, tra virgolette, il vostro paper. Nel corso della storia, quali sono stati gli altri satelliti che si sono occupati di scandagliare l'universo per indagare la presenza dei gamma ray e per capire soprattutto l'essenza fisica dei gamma ray burst? Beh, ce ne sono stati una serie. I gamma ray burst sono stati scoperti inizialmente alla fine degli anni 60 e primi anni 70 da dei satelliti militari che ovviamente non erano attrezzati per analizzare il burst. Quindi poi ci sono stati una serie di satelliti che hanno cominciato ad analizzarli, diciamo, durante gli anni 80, ma la grande svolta è stata all'inizio degli anni 90, mi sembra nel 91, con il lancio appunto del Compton Gamma Ray Observatory, che aveva a bordo questo Burst and Transient Source Experiment, BATSE, che è stato, diciamo, quello che ha proprio dato il via allo studio dettagliato dei gamma ray burst, perché ne ha registrati in un periodo di 10 anni all'incirca 3000, e quindi ha permesso di avere un, diciamo, un buon numero di burst da studiare. E la seconda svolta sicuramente è stata grazie al satellite italo-olandese Beppo Sachs, che ha volato a partire dal 97 e che ha permesso appunto di studiare l'afterglow, poiché aveva a bordo non solo lo strumento Gamma, ma anche uno strumento X, e quindi ha permesso di registrare l'afterglow dopo che il Gamma ormai era già finito, anche nell'X, e quindi quella è stata la seconda grossa svolta, perché poi ha permesso di determinare la distanza di questi oggetti, che quindi non si è capito in quel momento che non erano oggetti che provenivano, diciamo, lampi che venivano da vicino, quindi dalla nostra galassia, ma erano sicuramente di origine cosmologica, quindi che venivano proprio dallo spazio profondo. Un altro satellite importante che attualmente sta studiando i gamma ray burst insieme a Fermi è il satellite SWIFT, che ha anche una grossa partecipazione italiana, che però appunto studia i burst nella fascia energetica più classica, quindi alle energie minori. E quindi il bello è quando abbiamo un gamma ray burst che esplode e possiamo osservarlo con entrambi i satelliti, sia con SWIFT che con Fermi, in modo da coprire tutta la banda spettrale, dalle energie più basse alle energie più alte. Senti, qual è il gamma, se ce n'è stato uno, che ti ha stupito di più nel corso di questa ricerca, se c'è? Beh, sicuramente ci sono almeno due o tre gamma ray burst particolarmente interessanti nella mia selezione, soprattutto perché appunto sono stati visti anche dall'altro strumento, dal Large Area Telescope. In particolare il burst di solito ha un nome, lo definiamo con un nome che significa praticamente la data in cui è stato scoperto. Quindi il burst che ti dico è il 090902B. In questo caso significa che è stato visto il 2 di settembre del 2009 ed era il secondo burst della giornata, per quello la B finale. Quel burst mi è particolarmente caro, poiché ero io di turno quando è esploso, quindi la persona che è di turno deve analizzare il burst, ed era un burst particolarmente energetico, poiché il Large Area Telescope ha osservato il fotone in assoluto più energetico mai registrato proveniente da un gamma ray burst, con un'energia di 33 giga electron volt. A proposito di fotoni. Esatto. Allora Elisabetta, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio per l'ultimo minuto di Caccia Fotone, e a quel punto ti farò la domanda finale, che ormai abbiamo battezzato come domanda zainetto. A dopo. Grande Giove. West side girl, going to an east side bar. West side girl, going to an east side bar. Well, no damn good can come of this, so west side lips and an east side kiss. West side girl, going to an east side bar. Well, tonight it's gonna all hang out. Someone's in without a doubt. Well, west side girl's going to an east side bar. E allora siamo nell'ultima parte di Caccia Fotone. All'interno di questa trasmissione ci siamo occupati di gamma ray burst in compagnia della dottoressa Elisabetta Bissaldi, postdoc presso l'Università di Innsbruck. E visto che siamo proprio nell'ultima parte della trasmissione, a questo punto Elisabetta ti farò l'ultima domanda, la domanda zainetto. quale delle tante cose vissute nel corso di questa ricerca, dal momento in cui è cominciata al momento in cui è stata pubblicata, almeno è stato pubblicato il preprint su Archive, metteresti nel tuo zainetto da ricercatrice per portarti nel corso della tua carriera? Cioè, quale delle tante cose che hai vissuto ti ricorderai di più? Ma sicuramente metterei l'esperienza di far parte di un team internazionale così vasto, e soprattutto l'esperienza di aver partecipato con questo team internazionale a tutte le fasi, diciamo tutte no, perché comunque io sono arrivata solamente 5 anni fa a far parte della collaborazione, però alle tre fasi più emozionanti: la fase prima del lancio, il lancio stesso, che è stata, devo dire, un'emozione unica da seguire sulla TV della NASA, e la primissima fase dopo il lancio, quella in cui appunto, diciamo, va tutto storto, improvvisamente sembra che non sia stato calibrato bene qualche strumento, e poi in realtà uno controlla e alla fine funziona tutto perfettamente. Diciamo che queste sono delle emozioni che penso mi porterò dietro anche nella mia vita, diciamo nella mia carriera futura. E allora, Elisabetta, con questa tua risposta si conclude la 182esima puntata di Caccia Fotone. Intanto ti ringrazio per la pazienza con cui hai risposto alle nostre domande. Per voi ascoltatori l'appuntamento è alla settimana prossima con il fotone, sempre più fotone che mai, e l'augurio è, come al solito, di buona scienza a tutti. Grazie Elisabetta. Grazie a te, Fabio. E con chi stai parlando? Dici a me?